Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. È vero, vogliono sentirsi lisci come una donna. Mi sento più sicuro di me. Mezzo velo che ancora reggo, non mi sento disordinato al 100%. Quando sto a posto con me stesso mi vedo tutto bello pulito, depilato, senza un pelo. Mamma mi dice che sono troppo esagerato, che sto assiduamente al centro estetico. Vedermi senza peli mi dà l'idea di più pulito. Non lo so, con il pelo lungo non mi ci so vedere. Una volta che mi faccio i peli sulle braccia tolgo pure i peli sulle mani e sulle dita. Ceretta completa più il sopracciglio. Non dirò nemmeno sotto tortura da chi mi fu proposta la depilazione totale, ma posso dirvi che in un posto dove banalmente possono andare anche degli uomini a fare delle banalissime operazioni di recupero, di restauro di alcune loro parti, mi è stato detto: ma come, lei non se la fa? E a questo punto mi sono posto delle domande. So perfettamente, frequentando palestre, avendo frequentato palestre, conoscendo il mondo, essendo molto curioso e guardandomi intorno, che esiste una voga piuttosto diffusa per cui gli uomini si depilino. Pensavo e immaginavo che ciò fosse relegato soltanto alle giovanissime generazioni. So che i ragazzi adolescenti oggi devono essere lisci come statue, perché questo loro viene richiesto dalle compagne, fidanzate, amiche. Questo viene richiesto da un cliché che viene presentato naturalmente come uomini successo, che equivale a uomini totalmente depilati, lisci, lucidi. Ma per la depilazione totale si richiede naturalmente un fisico tonico, un fisico giovanile, una muscolatura ben definita, se no altrimenti una persona, diciamo, di mezza età, perché dovrebbe depilarsi? Anzi, più peli addosso e meno si vede il disfacimento della natura. Eppure non è così. Ho scoperto, raccogliendo immediate, tempestive testimonianze da amiche che mi raccontano tutto sui loro uomini, che in realtà anche gli uomini di mezza età hanno il vezzo della depilazione totale. Oggi l'uomo è antitetico al pelo corporeo. Posso capire alcune depilazioni in alcune zone che hanno un fantomatico quanto ipnotico effetto accrescitore. Togliere 2 centimetri di pelo in alcune zone significa aumentare 2 centimetri di dimensionamento, e questo lo posso capire, è una debolezza tipicamente maschile. Ma perché depilarsi il torace? Ora, io ricordo la mia, una generazione che ormai affonda le radici in altri secoli, addirittura in altri millenni, che esistono dei giornalini per ragazzi del genere intrepido, dove assieme agli occhiali per raggi X, assieme al metodo del dottor Alto per crescere alcuni centimetri in altezza, che poi era una specie di forca che in realtà sulla porta si alzava, c'era anche una fialetta misteriosa che serviva per avere un torace villoso. E c'era un uomo pelosissimo, con tutte le donne che lo accarezzavano, felice e contento, c'era un torace villoso, è il vero segno di virilità. Perché oggi è stata una deriva così potente, così feroce, degli apparati testimonianti la virilità per cui gli uomini piacciono depilati. Guardate, non è soltanto questione di ragazzine. Ho amiche 45enni, 50enni che mi dicono che in effetti gli uomini sono più puliti, sono più belli perché sono depilati. Beh, ancora, ahimè, la natura ci lascia addosso qualche retaggio di quello che fu il nostro belluino rivestimento naturale, dovuto alle basse temperature, alla mancanza di oggetti per coprirci, alla nostra ferina esistenza attraverso le nevi, i ghiacci. Ma cosa dobbiamo farne? Togliercelo artificialmente fino a che non saremo tutti glabri per tutta la vita sin dalla nascita? Donne, vi piacciono veramente gli uomini depilati? Fate depilare il vostro uomo ovunque, in alcune parti semplicemente. Uomini, perché vi depilate? È giusto dire perché ci sentiamo più puliti, ci sentiamo più a posto. Sì, ma questo dicono anche le donne quando mettono il tacco 22 e quando si gonfiano le labbra, quando si portano ad atmosfere vicine all'esplosione le proprie tette. Dicono: lo facciamo perché ci sentiamo meglio. Ma che ci sentiamo meglio? Lo facciamo perché il mondo ci obbliga a farlo. 800 24 0024. Il corazon fa male. Dai, allora fai così. No. Sì, ma fa un buco di roba. Uno o velocità 2? Non fa male, non fa male. Paura. No, no, tranquillo. No, non fa male. Ah! Brucia. Tutti i capelli che tiene. Brucia. Tutto inizia con una sorta di rito iniziatico. Di solito sono le ragazze che si riuniscono come una volta si riunivano per farsi la depilazione con le strisce autoadesive o farsi la ceretta assieme, che sono retaggi, mi ricordi, studenteschi, le studentesse fuori sede il giovedì, visto che era la serata, la sera in discoteca, si riunivano, mettevano a bollire un pentolino puzzolentissimo e si depilavano le gambe tutte assieme, ridendo, strillando, chiudendo la porta, non facendo entrare gli studenti fuori corso che volevano curiosare in quella sorta di mistero eleusino che si stava consumando. Oggi la stessa cosa viene fatta sui toraci quasi imberbi dei loro coetanei, che vengono depilati e strappati. Mi ha raccontato la signora, serissima professionista, che mi ha proposto questa sorta di operazione che mai nella vita farei, ma solo soprattutto per paura del dolore fisico, che alcuni uomini svengono sotto le sue mani, sì, perché la depilazione totale, immaginate che oltre naturalmente alla parte alto-toracica, che è una parte già in sé sensibile, almeno per un uomo che non si è mai depilato, scende anche nelle parti basse. Provate a pensare, maschietti in ascolto, cosa significa attaccarvi una specie di scotch autoadesivo su alcuni peli in zone molto delicate e strappare via. Perché? Per essere più belli, per essere lisci, per essere belli come bambini paffuti. 800240024, mi piacerebbe, come la pensa il pubblico dell'ora del soffritto rispetto alla depilazione maschile. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io prometto che mi piacciono gli uomini con i peli. Però ha mai visto uomini depilati? Sì, no, si vedono perché in palestra ce ne sono. Ecco, la palestra, diciamo, in palestra la frase tipica mi sento dire è ancora con sta mochetta addosso, capito? Ecco. E quindi? Sì, sì, no, è vero. No, la mia teoria è che purtroppo c'è un certo mondo gay, non tutto, che detta praticamente i trend per quanto riguarda il fashion, il beauty, e per cui adesso c'è questa terribile moda per cui gli uomini devono avere le sopracciglia rifatte, devono essere glabri, completamente glabri, e credo che però appunto sì, le risparmio allo spettacolo che in questo momento potrei solo descriverle per la sua gioia e la sua concupiscenza. Il professor Chiappini, che ha una stazza da 200 kg circa, si è aperto la camicia mostrandomi una selva oscura che lo ricopre dal gargarozzo fino all'ombelico. No, perché in effetti io, ieri mattina stavo correndo e ho visto questo ragazzo con le gambe completamente e aveva anche un suo fascino, insomma, no? Mentre invece gli uomini completamente privi di peli stanno perdendo un po' del fascino virile, un po' che comunque... Lei dice ci sarà una ricerca accurata fra un po' di uomini con dei residui pelosi, l'uomo metterà una maglietta o scritto sopra, io ancora ho i peli addosso, cose del genere. Infatti io penso di sì, perché ripeto, sono, è vero che c'è anche un mondo che si avvicina a queste cose, però sono soprattutto i ragazzi intorno ai 20, sotto i 30 anni, insomma, questo lo pensavo anch'io, mi ha stupito invece no, che è aumentata la fascia, i quarantenni si fanno la depilazione inguinale per il motivo che ho già accennato di una sorta di fantomatico ipnotico effetto prolungante perché mancano i peli, ma anche perché evidentemente questo chiedono le signore coetanee. Sì, no, ma è vero, ma siamo noi che lo chiedono. Uno si sottopone a questa tortura se non ci fosse un tornaconto. Evidentemente lo chiedono le donne, ma alle donne piace il corpo liscio, piace il corpo senza peli. E questo realmente è il motivo, anche perché poi dal collo in su oggi vanno delle barbe terribili, sono degli studi approfonditi sui germi patogeni che si portano gli hipster dentro la barba, perché ci passa di tutto, ma chissà perché dal gargarozzo in giù bisogna essere come bambini. Italo. Eccomi. Per lei è una necessità depilarsi? Ma io... Pronto? Sì, decidiamoci se parlare o no. Italo. È scomparso Italo. È una depilarsi è una necessità, diceva Italo, però è talmente tanto necessario che non riesco a parlare con lui. Andiamo avanti. Non c'hanno un pelo addosso. Io li vorrei far spogliare tutti a uno... Dimmi se qualcuno di quest'uomo c'ha un pelo addosso, dimmi allora se te all'Italia in questo momento vuoi dare una rappresentazione dell'uomo che è questo qui, che non c'ha un pelo addosso. Oh Raffaella, ma non scherziamo! Io capisco, ci sono alcuni modelli che passano attraverso la televisione, i mezzi di diffusione del trend, della moda, della piacevolezza, del gusto più popolari, e quindi alcuni programmi dedicati ai ragazzi mostrano, non so, i giovani ballerini di Maria De Filippi, che sono totalmente glabri. ma posso anche capire, il clima è proprio quello di ragazzi e ragazze che vivono in una grande accademia di danza in cui logicamente i ballerini si depilano. Ma nella vita quotidiana, nel quotidiano, esiste ancora un pubblico femminile che apprezza l'uomo con quella sorta di differenza, di villosità che ne fa appunto un essere ancora pronto a immergersi nelle foreste e le intemperie? Ormai dobbiamo adeguarci tutti al fatto di essere belli, lisci e puliti come esseri umani che vivono perennemente in un clima artificiale. Claudia. Ciao, buongiorno. Allora, io personalmente sono d'accordo invece sulla depilazione. A lei piace benissimo. A me piace un po' perché diciamo che i tempi ormai sono questi, a me vedere, ho 29 anni, quindi per me vedere un uomo completamente peloso, soprattutto di uomini molto pelosi, mi sembra esteticamente non più gradevole. Ma molto sono... significa anche la schiena pelosa, le braccia. Esatto, no, ma anche già il cosiddetto maglione, no? Il maglione cosa sarebbe? Esatto. Ah no, diciamo il torace villoso. Esatto. Lei pensa che negli anni 70 e 80 si portavano le camicie sbottonate fino a quasi l'ombelico per far vedere? Vedo le foto di mio padre che era piacevole così, però noi siamo col catenone che è in mezzo al pelo. Esatto. Invece io vedo soltanto riviste da quando, insomma, ho età di coscienza, sempre di uomini, sicuramente anche con fisico scolpito, ma assolutamente poco pelosi, depilati. E quindi sono abituata a vedere questo come un valore estetico. L'uomo col pelo che lascia i peli addosso poi alla fine non è bello, sì, perché rimangono attaccati sulla moquette, sul divanetto, nel cuscino, nel sedile della macchina, nel maglioncino di cashmere. Non è bello l'uomo che lascia tracce del suo passaggio. Per questo. E poi sotto è questo, e tutto sotto mi fa anche un po' piacere così questa questione gravosa della depilazione, la possiamo condividere noi donne anche con gli uomini. Quindi diciamo è un onere che si divide comune. Voi donne siete costrette dalla necessità da decenni, a togliere dal gambaletto in su a seconda della stagione, quindi anche gli uomini è giusto che abbiano questa sorta di onere per l'estetica. Va bene, allora è un motivo almeno finora, fino alle informazioni del traffico, di equità di tortura per essere accettabili. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. Qualcuno mi ha scritto: scusa, una curiosità, che metodo usi per depilarti le ascelle lasciandoti il buffetto centrale? Quanto ci metti? Potresti fare un video tutorial? Non ci faccio un benemerito piffero alle mie ascelle, sono così e così me le tengo, sono così, sono fatte così, cioè non ci faccio niente. Qui sono quegli esperti di estetica sia maschile che femminile che fanno quotidiane lezioni su YouTube, questo fa un video tutorial ma non lo fa sul depilarsi le ascelle, ma invece l'ascoltatore Salvatore si depila anche le ascelle perché questo vuole sua moglie e dice che a lui piace. Altri dicono che si tengono anche i peli che escono dalle orecchie, che sono terribili. Non voglio esagerare perché questa è l'ora del soffritto e non è proprio l'argomento migliore, ma torniamo all'aspetto puramente estetico, dimenticando per un attimo la consistenza di ciò di cui stiamo parlando. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, sono Riccardo da Bologna. Quanti anni ha Riccardo? 52 anni, sì. La veneranda età di 52 anni. Io faccio pratico judo, Brazilian Jiu-Jitsu, quelle forme di lotta dove ci si rotola per terra, ci si prende per strati. Deve ungersi d'olio per sfuggire dalle mani del suo poco ci avversario. Manca, però onde evitare una depilazione a strappo, sì. Bisogna che uno si depili prima, perché sennò la cosa... Che non è una questione estetica, anche i ciclisti si depilano le gambe. È una questione di necessità e anche di igiene, perché girando molte palestre per gare, manifestazioni, cose varie, le condizioni igieniche non sono sempre ottimali. Si evita il piattolone da palestra, dai, questo. Esatto. Questo è il concetto. L'estetica devo dire che non me ne frega niente, io sarei un soggetto alla Magnum PI per intenderci, però si fa di necessità e virtù. Cioè baffuto e completamente glabro per questo? No, cioè, avrei proprio il torace, quello peloso, la maglia in piai con la camicia sbottonata, però devo rasare il tutto perché sennò soffro. Però ne ha anche un lato positivo, piacerà molto alle donne che amano questa tendenza. Ho capito, però tanto devo tagliare tutto perché sennò sanguino durante il combattimento, altro, tutti qua non è che ti fanno carezze, attaccano tutto quello che c'è e tirano, quindi... Sentiamo Manuele più moderato. Manuele, buongiorno. Buongiorno. Direi che, come ho anticipato, le ascelle andrebbero depilate. Ma lei le depila o no? Perché assolutamente sì, per una questione prima di tutto. Ma come a strappo? Come fa? Io non mi spiego. No, ma è follia quella lì. Con che? Voglio dire, esistono, sotto le ascelle tagli con la vanetta, normalmente. A lei quando si fa la barba poi si alza le braccia, no, insapona e taglia le ascelle. Una volta ogni tanto sì, perché... Ma come c'è la ricrescita, scusi, c'è la carta vetrata sotto le ascelle? No, assolutamente, sarà una questione di... non anzi, cioè avere tutto quel pelo puzzolente. Ma puzzolente, scusi, adesso... se uno si lava e si deodora... No, guardi... Beh, dipende dalle persone, parli per lei. Senti delle cose, degli aromi... Sì, ma tanto, guardi... maschili che femminili che sono... Sì, ma chi ha quel problema, si può depilare quanto vuole. È questione di metabolismo. Ma è anche estetico, voglio dire, vedere quei ciuffi che adesso non posso dire, ecco, vedi la donna con i ciuffi, sembra che abbia più... ci siamo capiti cose, con tutti questi ciuffi che escono sotto. Vabbè, dipende, guardi, ci sono foto di grandi attrici come Sofia Loren che gli escono manciate di peli sotto le ascelle, ma era normale, è la percezione generale rispetto a un fatto estetico che determina se sia bello o sia brutto. Sì, la percezione mia. I nostri genitori, i nostri nonni non ci hanno mai visto nulla di strano a vedere l'ascella femminile ciuffosa, ma non parliamo di altre ciuffosità che oggi sembrano scomparse, vanno cercate con la lanterna. Come sì, no, Diogene. Quelle sarebbero ancora piacevoli, ma non si trovano. Non esistono più, sì, è rarissime. Soltanto in dei musei si trovano, se no è impossibile. Va bene, andiamo avanti. Massimo ha parlato, sì. Massimo ha parlato, allora andiamo avanti. È caduto anche Massimo. Molti ragazzi si depilano le gambe. Ma perché? Cioè, se abbiamo una cosa di bello è che non dobbiamo depilarci le gambe, insomma, non dobbiamo perdere troppo tempo a prepararci in bagno. Sondaggio tra le donne, vi piacciono le gambe depilate degli uomini? È molto giovane questo ragazzo che fa questo tutorial via rete. Però dovrebbe sapere, se ne accorgerà lui stesso, o forse oggi non accade più, che mediamente un uomo a 40 anni si ritrova dal ginocchio giù perfettamente depilato, perché il calzino e il pantalone alla fine ha questo effetto di livellatore, anzi è molto da Umarell. L'Umarell, lo riconoscete, quando l'estate si mette il pantaloncino corto tattico militare con le scarpe con i lacci, i calzini, ha comunque dei polpacci lucidissimi. Quello è l'unico momento in cui l'Umarell è perfettamente in linea con le mode giovanili. Massimo, l'abbiamo ripreso. Massimo, ecco qua. Sì, salve, buongiorno. Volevo dire che io sono depilato a metà, ecco, diciamo, nel senso che... Cioè, a sinistra depilato, a destra peloso? No, nel senso che, per esempio, le gambe non me le depilo, mi depilo solo le ascelle, le parti intime e il petto. Ho la fortuna di essere biondo, quindi non sono... molto molto peloso, però diciamo che... Ma fa in casa oppure si reca in luoghi, diciamo... No, faccio casa con la lametta, mentre mi faccio la doccia faccio sia le parti... Adesso non vorrei sembrarle, ma le parti intime pure con la lametta? Sì. Cioè, in sapone taglia col rasoio con la lametta? E non teme, diciamo, che le sfugga la mano? Può succedere. Cioè, sono quelle lamette che si usano per rasersi, è difficile, cioè, tagliarsi proprio. Io guardi, io mi faccio la barba da una decina d'anni perché me la sono tenuta, ma quando mi tagliavo spesso anche con rasoio di sicurezza. Una cosa è tagliarsi una guancia, una cosa è tagliarsi i luoghi più sensibili, no. Sono quelle lamette di plastica usa e getta, che le dico, era la medicina, però le dico, questa via di mezzo... Scusi, dopo quanto tempo ha la ricrescita lei? Ma io direi una volta a settimana. Ah, quindi una volta a settimana si occupa? Sì. Riscuote successo questa sua fatica, sì? Sì, direi di sì, perché nella parte intima soprattutto viene molto molto apprezzata. E le dico... c'è anche quella storia, diciamo, del guadagno. Sono 2 centimetri che appaiono in più, no? No. Sì, è così. Il motivo è quello, non mi prenda in giro. Dai, una volta noi si diceva che così si evita di sputare. fare meno, ecco, diciamo. Bah, sì, bah, vabbè, che sei, sono entrambi un particolare che non voglio sfiorare, voglio essere leggero. Giulia. Buongiorno. No, volevo dire, come ho già precedentemente annunciato, non vedo perché gli uomini devono assomigliare alle donne, nel senso che le donne stanno bene, sono di natura loro in generale piuttosto glabre, non vedo perché un uomo... No, glabre una... perché si depilano, perché le nostre nonne c'erano certi ciuffi, e guardi le foto degli anni passati. Non hanno certamente i peli così diffusi, soprattutto sul torace, sulle gambe. È la natura femminile, sì. Comunque, diventa... a me sembrano dei bei... dei vermi, per la signora sono dei vermi, e c'è invece a chi piace il verme e abbocca molto facilmente. Alla prossima.